il contributo italiano alle diverse attività contro le mine, che sono sia lo sminamento, sia l'assistenza alle vittime, sia i programmi di prevenzione e di informazione per le popolazioni che vivono nei paesi, diciamo, minati, è ridotto ormai a una cifra irrisoria. Si tratta di poco più di 2 milioni e mezzo di euro all'anno, che ammonta a metà dello stanziamento medio degli ultimi 3 anni. Già, diciamo, lo stanziamento degli ultimi 3 anni non era enorme, però ha permesso di fare degli interventi interessanti in diversi paesi. Quest'anno tutte le attività che erano sostenute grazie a questi fondi vedranno una riduzione notevole, quindi paesi che hanno un forte bisogno di interventi di varia natura, bonifica del territorio o informazione o costruzione di ospedali, centri di protesi, eccetera, vedranno una notevole riduzione della loro capacità di fare fronte all'emergenza continua delle mine che infestano 82 paesi nel mondo ancora. Molti pensano che l'emergenza delle mine sia ormai superata, ma in realtà in 82 paesi al mondo milioni di persone convivono quotidianamente con questo incubo e la tendenza, perlomeno dal punto di vista italiano, è a diminuire l'impegno per fare fronte a questo dramma. Il fondo è istituito con cadenza triennale e in teoria questa finanziaria ha già stabilito il fato dei prossimi 3 anni, quindi diciamo in finanziaria sono stati inseriti questi 2 milioni e mezzo o poco più di euro all'anno per il prossimo triennio. Però noi abbiamo intenzione di non arrenderci, diciamo, a questa prima sconfitta, a questa prima battuta d'arresto e di continuare a fare la nostra opera di persuasione perché il fondo venga rifinanziato, e questo è possibile farlo dopo il primo anno di finanziamento, quindi già dalla finanziaria 2005 noi cominceremo a ripresentare la questione, a ricordare alla gente quali sono esattamente i termini della tragedia umanitaria. Noi abbiamo un sito web che è www.campagnamine.org che riporta tutte le notizie sulle attività della nostra campagna. Abbiamo nei mesi passati abbiamo fatto una raccolta di firme, una petizione per il rifinanziamento del fondo che, essendo andata la cosa come è andata, vogliamo rilanciare e la rilanceremo il 1 marzo, che è il 5° anniversario dell'entrata in vigore del Trattato di Ottawa, che è il trattato per la messa al bando delle mine, e da quel giorno appunto cominceremo a rilanciare la petizione, alla quale speriamo che aderiscano quanti più cittadini, associazioni, gruppi.